Il fumo degli anni 70 aveva lo stesso colore del mare. Da solo nella mia stanza pensavo vorrei navigare. Mi tormentavo i capelli che mio padre mi costringeva a tagliare. Credevo in Jimi Hendrix e in un vecchio giradischi che funzionava male. L'Italia a ferro e fuoco sull'orlo della guerra civile. Le bombe di Savona, le grandi manifestazioni. Mio padre mi regalò una chitarra una sera d'aprile. Io la presi in mano come se fosse un fucile. Un fucile. In un giorno di primavera scappai da casa di mio padre. Ingoiai una piramide dove vivevano le fate. Insieme ad un amico con le braccia rovinate. Mentre la grande madre luna schiudeva le porte della nostra estate. E poi giù negli anni 70 l'autostop sulle autostrade. Piazze colorate, odore di donna. Lunghe notti d'estate nudi quasi senza vergogna. Notti d'inverno incantate sognando l'India e la California. La California. Centomila corpi magri sotto masse di capelli. Umili come rettili, audaci come uccelli. Dalle bianche sabbie del sud alle bianche nebbie del nord. Tra Marx e Castaneda e i fumetti di Alan Ford. Però poi ti guardavi intorno e mancava sempre qualcuno. Cadevano tutti quanti e si ritiravano ad uno sotto i colpi dell'eroina, sotto i colpi della polizia. E chi risucchiato indietro nell'esofago enorme della borghesia. La borghesia. Venne il 77, che ne sapevamo noi del punk. c'era ancora Carter presidente, la mitica Persia dello Shah. E noi eravamo in Italia, la dolce Italia delle vacanze. Noi sporchi, buttati per terra con le nostre chitarre e le nostre speranze. E passarono 10 anni, 10 anni in un momento. Come un castello di carte spazzato via dal vento. E c'è chi ha seppellito i sogni in fondo alla memoria. E c'è chi ha strappato quelle pagine dal libro della storia. Della storia.